sai qual è la verità, stessa realtà a due facce. Che a me piaccia oppure no, sei come me, io questo so. E che a me piaccia oppure no, sei come me, io questo so.